Primo live fuori all'aperto degli asteroidi esadecafonici. Ringraziamo Radio Default e ZK e questa bellissima iniziativa Ostia Palusa Do It Yourself. nata dei nostri geni, siamo diventati umani. Ogni anno vengono uccisi per il consumo alimentare in Italia circa 700 milioni di animali terrestri e miliardi di animali acquatici. Hai mai sentito gli urli di un macello? Un po' più trash metal, ovviamente. Se solo pensiamo che vengono costretti a vivere in spazi ridotti, allevati al solo scopo di essere uccisi. Venite con me, vi farò tutti pescatori di uomini. Ci sono campi sterminati, dove gli esseri umani non nascono, vengono coltivati. Con lo scopo di nutrire entità, divinità, che ci allevano, o più brutalmente, predano le nostre energie psichiche e vitali. È quello che normalmente viene detto karma. Mm-hmm. Oggi l'economia è fatta per costringere tanta gente a lavorare a ritmi spaventosi per produrre le cose per uccidere che altri lavorano a ritmi spaventosi per poter comprare. Ostia Palusa, estate 2013. Estate molto orribile 2013. Alla radio. Restate sintonizzati su Radio The Fall. Ci vediamo alla radio. Dai colli predestini e suoniamo con 16 note per ottava.